Tu dietro a un vetro guardi fuori, lunghe luci chiude marciapiedi, e la gente si è dissolta nella sera. Tua madre a testa media, sogni medi, che sbatte gli occhi da cammello, non si è rassegnata neanche spera. Un cespuglio di spidi, tuo fratello che pensa sulle unghie delle dita, pitonato con un'aria da bollito. Tuo padre mani da operaio vito, che ride gli si spacca il viso, pallidito di TV. Tu fretta di vivere qualcosa, e ogni cosa è già un ricordo liso, e adesso la pubblicità. Quelle tue voglie imbottigliate, occhi come buchi della chiave, ed un'azienda lezzita sotto neve bianca. Tuo padre aspetta sempre qualche nave, funambolo sul filo del passato, e ce ne siamo una bistecca stanca. Tuo fratello un grammofono scassato, un fiume di pensieri in fuga si specchia in un cucchiaio e fa una bocca storta. Tua madre si rammenta qualche ruga, è una domanda di dolcezza che porta in tavola e va via. Tu nascosta in fondo l'amarezza, a far finta che il mondo sia un bel posto, e adesso la pubblicità. Ma che giorno è, tutti i giorni, ed una sera ogni sera, e questa sera come fuoco a tutto quanto. Tu in quella schiena l'uccellino, che si incurva e si vedono gli affanni, le tuoi domani, dei tuoi pochi anni. Si soffina le mascelle come impanate nella barba, una sigaretta in mezzo ai denti, e lui ci parla intorno. Tua madre che si sveglia, strappi e scuote tutta la polvere di un giorno senza persone e novità. Tuo fratello scemo che dà uno spintone a tuo cuore rovesciato come tasche vuote, e adesso la pubblicità. Oggi è quasi un secolo cade come un telo a smorzare gli occhi di televisore, e tu dietro un vetro guardi fuori. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh,